Salute e felicità 21.05. Eccoci qui alla seconda puntata, alla prima di febbraio, alla prima puntata sotto la neve. Siamo in diretta da Piazza Vittorio sotto Santa Maria Auxiliatrice, in nostra Santa Maria Maggiore. Vabbè, dal quadrare a Piazza Vittorio. E in diretta qui sotto la neve nel nostro studio, nel nostro fantastico studio di registrazione. La scaletta è pronta e questa volta Pissi Cree ha dato proprio il massimo del suo lavoro. Non so come, cioè c'ha davvero, in due ore lei vorrebbe mettere 25 pezzi di musica, che praticamente vuol dire che dobbiamo stare zitti perché sono un po' tanti da mettere in due ore. Ma noi come al solito andremo oltre fino verso l'infinito. Faremo due ore di trasmissione, ne faremo due ore e mezza. Anche perché, come dire, TDF questa sera ci ospita, per cui possiamo fare una trasmissione lunghissima. Olè! Tanto stanotte nevica, vero? Vero? Non lo so. Così hanno detto. Non lo so, ma se nevica comunque vuol dire domani non si lavora a Roma e si ferma tutta la città. Ho capito, però com'era quella frase che avevamo detto prima? Du botte de neve tutti nel panico praticamente. Come dice la mia cara mamma, che sta in un paese dove nevica molto spesso, è possibile che per questa poca neve Roma è andata in tilt? Mamma mia, signore e signori, davvero, cioè, vabbè, poi magari è pure un po' una banalità, però come dire, cioè, mo oggi Alemanno ha detto che noi dobbiamo scendere in strada e spalare. Dice che o spaliamo o siamo a casa. Anzi, rimanete in casa oppure spalate. Ecco. C'è anche tanto di video con Alemanno con la pala in mano, perché anche lui oggi ha spalato un sacco di merda. Ecco, su tutti, come al solito. Su tutti, ma già che siamo in tema Alemanno e Company, Neve e Company, su Facebook da ieri che gira una fantastica immagine con Alemanno di 15 anni fa con la sua bandiera con la celticona dietro, con scritto "I fascisti non sono neanche buoni a spalare la neve". E questo, diciamo che, come dire, ce lo sentiamo sul gelo delle strade e sulla neve che continua a fioccare e a bloccare questa città. E quindi, come si può notare, 21.08, questa trasmissione parlerà anche di neve, chiaramente, probabilmente. Perché ci ha soverchiato, ma abbiamo da dare due novità, quindi, diciamo. Ci potete contattare su Skype, signore e signori, come l'altra volta, però in realtà questa volta funzionerà a bomba, abbiamo già sperimentato, e quindi basta che sul vostro Skype aggiungiate il contatto Salute e Felicità. Scritto Salute e Felicità. Felicità, salute, senza accento semplicemente. Basta che aggiungete e potete, comunque, se avete voglia di, diciamo, parlare con noi e di interagire con la trasmissione, noi vi mettiamo in onda al volo, quindi basta davvero poco che ce vo. Prima devono chiamare sul cellulare, sentiamo quello che hanno da dire, se non ci piace non va bene. Piove. Ma c'è pure la censura qua. Mi pare chiaro, non ho capito, cioè. Chiaramente si accettano solo contenuti antifascisti, antisessisti, antirazzisti, non transfobici, omofobici, eccetera, eccetera. Balle. Io voglio dire una cosa, però. Lo sapete che i miei co-conduttori hanno deciso di darmi tanto da fare, per cui mi hanno messo un microfono in fronte e non riuscirò mai a parlare in questa cazzo di trasmissione. E che sei un po', diciamo, un po' meno alta degli altri. Vabbè, fra tutte e due, cioè, i miei co-conduttori, uno è alto 1,20 m e l'altro è alto 1,22 m. Ho capito, stai serena, cara. In ogni caso, e se non volete venire, diciamo, se non volete probabilmente parlare con noi su Skype, potete comunque venire in chat dal sito transizionedifase.org e aspettate, perché ora è preparatissimo. La so, l'ho studiata, perché la scorsa settimana abbiamo avuto moltissimi problemi tecnici da questo punto di vista. Avete avuto moltissimi problemi. Voi dall'altra parte del microfono avete avuto moltissimi problemi tecnici, ergo per cui www.transizionedifase.org per ascoltarci, ma già lo state facendo. Sì. Cliccate su chat, dovete installare l'applet di Java se non è già installato sul vostro computer, quindi fate installation, questa cosa durerà diversi minuti a seconda della vostra connessione, dopodiché si apriranno due finestre, alla prima dite esegui e alla seconda dite no. Facendo questi tre semplici passaggi entrerete nella fantastica chat di Salute e Felicità, dove già vi salutiamo dopo. Vi salutiamo dopo, ma già siete tantissimi, quindi ci piace, si possono fare richieste, sì, certo. Basta con sta storia quale, drastico di che, siamo 1.000.000, sì, siamo tantissimi qui a Salute e Felicità, 21:10, pronti per partire in corteo. A proposito di questa cosa, già sappiamo che alle 9:45 ci sarà la nostra rubrica Dalle Stelle alle Stalle, per cui invito tutte e tutti quelli che sono iscritti in chat, che devono assolutamente dirci il loro segno zodiacale, ovviamente per come tutte le radio indipendenti che si rispettino, la minoranza vincerà, per cui leggeremo l'oroscopo dei segni in minoranza. Intanto qua le notizie fra chat e Skype che arrivano. Sandrona, non è vero che avendo tutti capito come entrare in chat, tu evidentemente sì, ma tanti altri no. E ci dicono che in Francia nevica sempre, ma stiamo peggio di romani. Arriva un messaggio dal nord della Francia che dice questa cosa, quindi evidentemente la neve mette un po' in crisi tutto, ma ci sono situazioni e situazioni, ma ne parleremo dopo. Ma di cosa parleremo questa sera? Scusatemi, perché stiamo parlando di niente. Di cosa parleremo stasera? Attaccata al microfono. Di che cosa parliamo? Dici tu un po'. Dai, PsicoV, di che parliamo? Allora, parliamo della nostra nuova cuoca che ci ha fatto un fantastico risotto alla zucca. Che brava! È stato buonissimo, era spettacolare. Adesso ci fa le foto, tra l'altro. Ci abbiamo anche la fotografa di Salute e Felicità, ragazzi, stiamo avanti. Poi si è persa. In realtà, questa sera, come al solito, parleremo, come dire, delle questioni che più ci riguardano, a parte la neve, che, come dire, ci ha resi tutti molto felici venerdì a ora di pranzo, almeno a me mi ha reso molto felice, e parleremo della politica, di quello che quella stronza della Fornero si sta preparando, come Dacci dire. Sua, piagni, Fornero, piagni! Era meglio quando piangeva. Facevi bella figura. Almeno te stavi zitta, come dire. E poi parleremo di musica. Questa sera abbiamo un tema molto caldo, caldo. Molto gelo. È rock. Questa sera si parla di rock, ragazze e ragazzi. Chiaro, diciamo che l'altra volta abbiamo iniziato questo percorso all'interno del rock che durerà più e più puntate, a quanto abbiamo capito. Perché va bene, chiacchieriamo tanto, un po' di cose ce le abbiamo da dire e quindi poi il tempo finisce e arrivi che sei alla fine degli anni 50 con rock. Quindi roll. E quindi è arrivato il momento di andare oltre. Direi che va bene, vi mettiamo un paio di brani. Vi mettiamo un paio di brani, che ne dite? Sono d'accordo. Siamo d'accordissimo. E allora 21:13, Salute e Felicità qui dalla postazione dell'Iglu vi saluta, anche se siamo a maniche corte. E buone 2 ore e mezza insieme a noi. Spammate, spammate, spammate, perché le notizie sono tante, le curiosità ancora di più. E parapim e parapam. E vai. E allora buon ascolto a tutte e tutti. Aspettate, iniziamo con una frase celebre. Aspettate. Se tu sei pronto con la musica, io dico la frase celebre e tu metti la musica. Certo, ma ce la possiamo fare. Vabbè, io giro le sigarette, ho capito. One day even the world will bow to the sound of a guitar. Che vuol dire? Ve lo diciamo dopo. Mazza, ciao belli. If everybody had a buzzer across the USA, then everybody'd be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Inside, outside, Ventura County line. Inside. Ed ecco che il mio conduttore mi sbaglia la playlist. Io lo voglio ammazzare. Va bene, non fa niente. Che dire? Torniamo in voce per dire due cose sul brano che avevamo ascoltato. Salutiamo Sandrona. Ciao Sandrona. Abbiamo capito chi è la ragazza dal cognome ambiguo. Ah, e allora era. Io non ho capito niente come al solito. Va bene. Va bene, che dire, abbiamo appena ascoltato Surfing USA dei Beach Boys, siamo nei mitici anni 60 e comincia, come dire, quella che è la stagione del rock. In realtà, proprio perché il mio conduttore mi vuole un sacco di bene, ha deciso di mettermi in difficoltà, per cui... Bene. Non solo ha sbagliato la playlist una volta, l'ha sbagliata due volte. Allora, che dire? Che il rock arriva nella fantastica... mi dicono che si sente male il microfono, io però mi sento. Arriva nella fantastica California e quindi diventa, come dire, motivo di ballo e di festeggiamenti sulla spiaggia. E quindi... viene interpretato dai Beach Boys con il surf rock. Però siamo diciamo agli inizi degli anni 60. Che cosa succederà negli anni 60? Frodo, che cosa succederà? Allora, inventano nuovi tipi di caramelle di tutti i tipi? No? Cosa succede negli anni 60? Che ne so. C'è il Technicolor. Il Technicolor. Non è il primo computer. 1953, ma che davvero? Che cosa succede negli anni 60? Pissi grillini. Beh, che succede negli anni 60? Sicuramente da lì a 3 anni ci sarà la prima protesta degli studenti nell'università di Berkeley, che darà vita di fatto al 1900, che darà vita quindi alle contestazioni degli anni 60 e degli anni 70. Per cui vi lasciamo adesso con una canzone, come dire, molto bella e che apre la stagione musicale, proprio perché la musica diventa espressione del disagio sociale. Stiamo parlando di Bob Dylan con The Time They Are Changing. Buon ascolto a tutte e tutti. Ammazza che brava. And admit that the water... Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Thank you. down, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Eccoci. Ed eccoci di nuovo tornati qui a Salute e Felicità. Che sì. Dire, abbiamo ascoltato The Time They Are A-Changing di Bob Dylan, che un po' segnava come dire l'inizio della musica rock americana, quando la musica, come dicevo prima, si unisce a eventi di protesta, per cui Dylan, come dire, rappresenta un po' il colui che mette appunto, che canta un po' il disagio della generazione degli Stati Uniti, è quello che sarà poi, come dire, la musica contro, per i diritti civili, contro la guerra nel Vietnam. In realtà dopo abbiamo ascoltato The Beatles con Twist and Shout, perché se negli Stati Uniti avevamo Dylan e i Beach Boys, in Inghilterra scusate ma succedono delle cose strane, in Inghilterra dall'altra parte dell'oceano fa strada così un gruppo che diventerà uno dei gruppi più famosi del mondo. La canzone che abbiamo ascoltato è una delle prime canzoni del primo album del Beatles del 1963, Please Please Me. Che dire della musica rock, che dire della musica di questo periodo, anzi in Inghilterra? Due battute, nel senso che sicuramente è più i blues club erano più diffusi in Inghilterra, e quindi, come dire, davano largo spazio a quelli che erano suoni come quelli dei Beatles. Però non c'erano solo i Beatles, ecco, c'era sicuramente un altro gruppo che farà la storia della musica, diciamo, mondiale, anche questo gruppo qui, e che tipo le pietre rotolanti? pietre rotolanti, anche se non sono proprio pietre rotolanti, però così si le conosciamo tutti, che hanno quel fantastico simbolo della linguaccia che è diventato veramente il segno di un'icona della musica, come mi viene suggerito dalla mia conduttrice, che ha qualcosa da dirvi a proposito dei Rolling Stone. E allora, sì, ero un attimo impreparata. Innanzitutto dobbiamo rispondere a qualche domanda che ci viene fatta dalla chat, ovvero ci continuano a chiedere: ma da dove trasmettiamo? Né dai Caraibi né dal Messico, l'hanno provate tutte? No, stiamo trasmettendo da un igloo di Piazza Vittorio. Qualcuno dice siamo anche una sede vagante in qualche modo, e quindi, come dire, se avete studi di registrazione da volerci regalare, salute e felicità, è felicissima. Comunque passiamo al prossimo brano che si stava per preparare, I Can Get No Satisfaction, che è uno dei primi singoli dei Rolling Stones scritti da Mick Jagger e Richard. Da chi? Mick Jagger e Keith Richards. Frodo, lo sentite che fa ogni tanto perché sta provando l'altro microfono, non è impazzito del tutto. E la prima volta che si è sentita questa canzone era il 1965 è seconda nella classifica delle migliori 500 canzoni mondiali, e io direi che quindi ci andiamo a sentire un grande brano, una grande icona, quella della lingua rossa, che ha ripreso anche un gruppo, se non sbaglio, di lesbiche, gay, transessuali, intersessuali, queer, per i primi di dicembre, per la lotta all'AIDS, stampando una lingua gigante che è appesa proprio qui di fronte a noi, di 2 metri, con scritto Porn to be alive. Quindi, come dire, ce la meritiamo e ce la condividiamo questa fantastica canzone dei Stones, I Can Get No Satisfaction. Alzate il volume delle casse, per favore. Ballate! E ballate 21 e 29, questa è Salute e Felicità. I tried. eccoci tornati, 21:35, salute e felicità. Abbiamo sentito prima gli Stones con I Can Get No Satisfaction e poi erano gli Yardbirds con For Your Love. Allora, diamo innanzitutto, io saluterei tutti e tutte quelle che sono presenti in chat, quindi Clash, Drastico, Gesa, Candy, Croata, Lilith, Marusca, salute e felicità, Sandrona, Silico, Falara, Stafarai, Schnausen, Trilli e Paul Post. E rispondiamo a qualche domanda che ci viene fatta in chat, ovvero abbiamo bisogno di uno studio, Drastico, sì, no, insomma, se ci volete regalare qualcosa preferiamo un microfono. Ah, che dolore di orecchio in questo momento. Scemi tutti siete su questa chat, siete un po' scemi tutti. Volevamo parlare un po' di questa situazione in cui Roma si è catapultata in questi ultimi giorni, ovvero quella della neve, perché, come dire, le polemiche sono molte sia sui giornali sia in TV, ma la cosa che ci fa più ridere è questo comportamento di Alemanno, che fa un po' su e giù, nel senso che giovedì tutti quanti dicevamo esagerato, ha chiuso le scuole, ha chiuso di qua, ha chiuso di là, ha predisposto 2,5 tonnellate di sale e in verità poi venerdì la neve c'è stata. Che è successo questo venerdì a Roma? Adesso proviamo a fare un collegamento audio con una ragazza che ha passato 3 ore in macchina venerdì. Proviamo il contatto, vediamo se funziona. Pronto? Pronto, ci senti? Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo, siamo da Salute e Felicità, in onda da casa di Drastico, che ci ha appena dato il suo studio, da 2 ore Drastico. Comunque, allora ci hanno detto che tu sei stata ore imbottigliata nella neve, dico bene? Sì, avevo dimenticato lo snowboard a casa, perché proprio su Lungotevere avrei tanto voluto aprire il mio portabagagli della mia Mercedes-Benz nera di super lusso e tirare fuori lo snowboard. Vabbè, questa è ricca. Tu. Ok, proviamo con una compagna. Vado io. Vada. Tu. Che è un altro squillo. Lo squillo lo faccio sempre io, vai. È in sol. Tu. Era più carino il mio, scusa. Tu. No, non c'ha senso. Comunque. Questo è più bello. Lo squillo del telefono è in sol. Quando avete una chitarra a casa, in là. Io che so di che non ci avete niente per accordare. Vabbè, la compagna non c'ha i soldi, regà, non risponde. Riproviamo con Psico V. Tu. No, ma... il telefono timido è questo. Scusate, sto squillà. Comunque. Dai, no, il telefono nitido, niente. Timido. Allora, mettiamo un brano? No, che brano. No, la cosa stupenda. Vabbè, io personalmente da quella di Rienzo ad Alessandrino venerdì ci ho messo 3 ore e mezza. È stata una fantastica avventura. 200 metri, 45 minuti, non sto esagerando. Fino a che muro torto era cascato quel famoso albero, l'ho saputo solo il giorno dopo. Mi buttai su quell'allegro Lungotevere e, pensate, era vuoto il Lungotevere. Cioè, la strada di fronte a me era completamente vuota, ma eravamo sul ciglio di una discesa che poi prevedeva una salita e quindi tutti gli automobilisti si guardavano fra di loro e non sapevano assolutamente come affrontare discesa e salita. È stato un viaggio, è stata un'avventura e la cosa un po' più critica che è successa a Roma è che queste 2,5 tonnellate di sale sparse per tutta Roma sono rimaste dentro i sacchi praticamente. Cioè, oggi pare che i ragazzini invece fa palle di neve si tiravano un faccia al sale perché disinfetta. Sì, hanno mangiato tutti salato perché hanno detto utilizziamo questo sale, facciamoci qualcosa. Quindi Alemanno ha fatto 2,5 tonnellate di sale, te ce sei per lì ma la prossima volta, nel senso che magari. Sì, Brunetta è stato visto in mezzo alla neve e si è perso nel 1,5 metri di neve. Si è nevicato troppo per Brunetta, insomma. Vabbè, ci sono personaggi e personaggi, quindi che cosa fare? Dopodiché alcune note tecniche, io mi raccomando a tutti coloro che si stanno mettendo in viaggio, ci stanno ascoltando dalla macchina sulla nostra frequenza FM, tipo non frenate, non date, cioè no, non frenate, non correte, ragazzi e uomini, tenete il vostro testosterone a bada, perché non ho fatto altro che vedere grandi SUV che ora bruceranno tutti in mezzo alla neve e macchinone sfrecciare per la neve e perdersi con le ruote che facevano. Basta schiacciare l'acceleratore piano. Comunque sia, si può fare, ma le strade di notte sono gelate, quindi mi raccomando ragazzi, state tutti a casa, che c'è salute e felicità questa sera. Favi compagnia, favi compagnia. Solo una nota su quello che avevamo ascoltato, prima ascoltavamo una canzone degli Yardbirds che si chiamava For Your Love, e ricordiamo semplicemente una nota così un po' musicale, un po' da oddio questa cosa la so che è bello, preparata. Sono preparata, e che praticamente il gruppo degli Yardbirds 1963-65 in Inghilterra insieme ai The Beatles, solo che i Beatles andarono molto più avanti degli Yardbirds, e praticamente è stata la palestra per dei chitarristi fantastici, tra cui Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Per cui vi lasciamo ad un altro brano. C'è sempre qualcuno che vuole dire qualcosa, comunque. No, non gliela faccio. No, mi ero dimenticata una cosa fantastica, che Alemanno, oltre a dire ho stato a casa, ho spalato la neve, ha distribuito, cazzarola, l'ho persa, ha distribuito 2000 pale. Cioè, io non l'ho visto con le pale in mano, però penso Alemanno che distribuisce le pale per Roma, poteva essere veramente una scena epocale. Io mi chiedo chi le pagherà tutte queste pale, visto le multe che ci stanno fanno in questo comune. Io sono veramente preoccupata. Va bene, vi lascio agli... Ma ve lo dico la prossima volta, cosa sono. E salutiamo Maria. Ciao Maria! Baby, I feel good from the moment I arrive. Count as ball that day. Eccola, e siamo di nuovo in voce. Che dire, abbiamo ascoltato tre pezzi, tra cui la conosciamo tutti, I Can Get No Satisfaction, The Rolling Stone. Poi abbiamo ascoltato i Kings con una canzone che si chiamava Till the End of the Day. E adesso questi erano gli Who con Pinball Wizard. Come dire, questi vengono un po' considerati la cosiddetta triade inglese del rock, nel senso che all'inizio degli anni 60, appunto dopo i Beatles, si fanno avanti questi gruppi musicali che un po' sono l'altra faccia, non sono la faccia pulita dell'Inghilterra, che erano un po' quelli che erano i baronetti inglesi, ma invece hanno un suono un po' più forte, e sicuramente, come dire, loro rappresentano un po' quelli che hanno fatto la storia della musica inglese. Degli Who abbiamo deciso di passare questa versione qua perché rappresenta molto una caratteristica della musica inglese di quel periodo, e cioè il mettere, come dire, in musica quelle che erano i cosiddetti concept album, nel senso un po' di rock opera, quindi mettere in musica appunto le parole della vita inglese sostanzialmente, mentre perché Pinball appunto perché appunto Pinball Wizard è, come dire, una canzone che viene definito di un genere rock opera, anche se la loro canzone, come dire, Manifesto è My Generation, ci tenevo a dirla. Così, mi sembra che siamo giunti alla presentazione della nostra maga delle stelle. Intanto ci ascoltiamo la sigla della nostra maga delle stelle, dico bene? Vai. Ci ascoltiamo la sigla della nostra maga delle stelle. E salute e felicità, inizia il suo, come dire, la sua rubrica, la sua punta di diamante con la nostra maga delle stelle Anna Rota. Ci senti, Anna Rota? Buonasera da Anna Rota. Bellissima, abbiamo, wow, siamo proprio super fighi che facciamo questi collegamenti. E, prima abbiamo lanciato in chat i segni zodiacali, insomma, di chi sta ascoltando Salute e Felicità, dicendo che avremmo premiato quelli in minoranza. E la nostra minoranza di questa sera sono i pesciolini. Ma prima di andare sui pesciolini, non so, Anna Rota, se ci vuoi dire qualcosa in generale, se queste nevi hanno incontrato queste stelle o qualcos'altro, o ci vuoi leggere il segno? Allora, guarda, perché siamo sotto il segno dell'acquario e quindi mi sembra giusto. Che ne dici? Io direi che va bene, anche perché acquario in verità è stato il primo citato in chat, quindi... Perfetto, allora io vado con le previsioni. La luna opposta di martedì vi porterà forse ad affrontare una discussione nel lavoro o con il partner, ma riuscirete a superarla più facilmente se avrete un atteggiamento disponibile al dialogo. Viceversa, un eccesso di orgoglio potrebbe complicare tutto. Energia in weekend frizzante con amici e partner. Wow, quindi Acquario diciamo che se la può cavare da metà settimana? Eh sì, esatto, esattamente. Ok, ok, allora andiamo con... Altre richieste? Abbiamo il cancro con le 8. Wow, al segno, quindi estremamente positivo. Insegna del senso pratico, su cui potrete contare soprattutto in ambito lavorativo, che vi vede molto impegnati ma non stressati. Sarete lucidi, produttivi e ben disposti. Ottimi rapporti con amici e colleghi. E allora gli amici e colleghi del cancro e... Sì, sì, gli amici e colleghi del cancro, poverini, stanno messi un po' così. Ora c'è saltata la connessione, ma non lo diciamo, con la nostra Anna Roda che ci stava leggendo il cancro. E qualcuno diceva anche, invece di sapere come va l'amore del segno, vogliamo sapere come va il sesso. Sporcaccioni! La connessione un attimo è crollata, adesso la richiamiamo subito, però intanto vi mandiamo un altro brano della nostra selecta, la nostra amica Pissigria, alla quale facciamo presentare questo pezzo, che è antiproibizionista in un certo qual modo, mi pare. Beh, antiproibizionista, come dire, nel senso che adesso ascoltiamo un gruppo che nasce dalle ceneri di quello che c'era prima, soprattutto gli Yardbirds e gli Animals. Ascolteremo un pezzo dove ha suonato un chitarrista bravissimo di nome Eric Clapton, e questa è Cocaine dei Cream, o meglio di Eric Clapton. Buon ascolto a tutte e tutti. Thank you. 21:57, torniamo su Salute e Felicità. Eravamo in collegamento con la nostra maga delle stelle, che grazie a Giove, Venere e Saturno è tornata in collegamento in diretta con noi. Ci sei? Ci sono. C'è. E ne ha timore. Ne hai timore? Ne ho timore abbastanza. Vedo anche che ti si sono gonfiati un po' i capelli. È vero. È tutta colpa di Venere, che sta nel segno del Cancro, se non sbaglio, vero? No, la luna, cara. Ah, la luna è sul segno del Cancro. La luna è nel segno del Cancro. Io stavo leggendo proprio il Cancro, che tra l'altro è il mio segno. Oh, allora te la vogliamo sentire con enfasi. Esattamente, parto. Dai, yeah. Allora, per gli amici del Cancro, la settimana all'insegna del senso pratico, su cui potrete contare, soprattutto in ambito lavorativo, che vi vede molto impegnati, ma non stressati. Sarete lucidi, produttivi e ben disposti, ottimi rapporti con amici e colleghi. Potrebbe esserci qualche tensione con il partner, ma saprete affrontare le cose con serenità. Il consiglio: cercate di essere meno testardi, perché quelli del Cancro sono abbastanza testardi. Anna Rota, stai dicendo che sei testarda? Yes, lo dico, lo affermo, è la verità. È una confessione, non è normale. È una confessione in diretta. Ti è presa, registrata, domani andremo in rete nazionale. Esatto, lo sapranno. Sappi che in chat dicono che se hai azzeccato ti portano a cena fuori. Ah, perfetto, io ci so. A posto, è fatta. E allora vediamo come andrà questo Cancro, vedremo domenica prossima se le previsioni annunciate saranno quelle che si verificheranno. Direi che possiamo andare avanti, Maga delle Stelle, se sei d'accordo, a scelta fra Capricorno, Pesci, Gemelli, Vergine, insomma quello che vuoi, dai. Guarda, io partirei dai Gemelli, perché i Gemelli mi piacciono questa settimana. Oh, ce diciamo ne abbiamo due qui in casa, eh? Ah, ecco, vedi. Perché è un problema? No, vai avanti. Dipende dai punti di vista se ti piacciono i Gemelli. Quindi, dicevo, l'inizio di settimana è brillante, con Venere in appoggio da mercoledì. Possiamo dire che ormai il periodo in generale è in ripresa. A parte qualche incomprensione o tensione nella sfera privata, state tornando ad essere espansivi e vivaci, provocanti, ma all'occorrenza anche diplomatici astuti, come solo voi sapete essere. Il consiglio: aprite il cuore anche a nuove occasioni. Ai ai ai Pedro, dai. Quindi questi Gemelli i gemelli ci piacciono, abbiamo capito. Sì, alla grande proprio. E dopo vogliamo proseguire con i pesci? Sì. Eccolo il nostro pesciolino che è qua. Sentiamolo un po'. Dica. Piano, che nel periodo, piano. Perfetto. Allora, settimana all'insegna dell'impegno e dell'efficienza. No, cambiamo tipa che fa l'oroscopo. Vero. Da che è sta cena, salta. Ecco, vai. Perfetto. I giorni più antipatici saranno quelli centrali della settimana. Ecco, bene. Forse qualche problema in casa o semplicemente un po' di stanchezza. Potrete comunque contare sull'aiuto di un amico fidato o un consulente esperto. Ah. Il weekend vi aiuterà a liberarvi di alcuni pesi emotivi. Evviva! Hai capito? Quindi è il weekend. Weekend. Mercoledì, giovedì, insomma, così, diciamo, pesantucci. Sì, esattamente. Però sì. Va bene. Però devi fare le pulizie, Frodo, è inutile che sei stanco. Non sarà una buona scusa alla luna nel segno. Ricorda, sempre problemi in casa, Sì, eh? Ah. Hai capito? Going qui? Che è dall'altra parte della stanza. Vabbè, andiamo avanti, va. Che ci leggi, Anna Rota, che ci leggi? Adesso leggerei il Capricorno. Sentiamo. Altro segno positivo della settimana, direi. Diciamo che c'è però una contraddizione. Da una parte ci saranno dei risultati appaganti nel lavoro che ricompensano alla grande la vostra concretezza. Dall'altra Venere va in una posizione dispettosa e potrebbe innervosire la vita privata, la vita familiare. Approfittate della parte centrale della settimana per chiarire malintesi con il partner e magari accettate il consiglio di un amico fidato, che magari vi può dare un parere dall'esterno e può essere forse più obiettivo del vostro. Se non ci avete amici fidati, praticamente sia Capricorno che Pesci siete finiti, proprio, siete proprio finiti. Praticamente, sì. Allora io direi andiamo con l'ultimo segno e poi ritorniamo un attimo alla musica, anche perché abbiamo superato le ore 22 e quindi dopo la nostra maga delle stelle ci sarà il nostro mago delle cazzate con il The Best delle 22 di Salute e Felicità. Ma prima di questo ci siamo dimenticati un segno, Vergine, per favore, grazie. No, ma sei di parte. Un a caso, facci sentire. Ok. E poi Vergine pure io, cioè voglio dire, insomma, andiamo avanti. Allora, per la Vergine c'è un momento di scoraggiamento. Ecco, che potrebbe disturbare questo inizio di settimana. C'è un'atmosfera un po' troppo pesante in questo periodo. Forse state per prendere una decisione e la luna tra mercoledì e venerdì vi risolleverà l'umore e vi renderà più sereni. Anche l'amore migliora. Marte smette di infastidirvi. Ma Marte va brava e vi riporta armonia. Il weekend sarà vivace con gli amici, con l'amore, con chi voi volete. Io direi che mi posso accontentare per questi segni di questa settimana, Pesci e Gemelli, non so, poi vedremo. Gemelli non ha sentito, ma non fa niente. Ah, Gemelli è senza cuffie, quindi non ha sentito. Perché io sono quella sfigata della trasmissione, E allora l'ultimo, perché ce lo stanno chiedendo a gran voce, poi ci salutiamo, che è lo Scorpione. Ah, in verità ci stanno chiedendo sia Scorpione che Scorpione e Scorpione. Scorpione e Sagittario, li facciamo tutte e due in una botta sola e poi ci salutiamo. Cioè, ce l'abbiamo. Vai, Anna Rota. Con la sigla. Wow. Bellissima questa canzone, La Lipuna, Fucking Books. E sentiamoci. Fucking fake. Oh my god, ne ho timore, vai a Naruto. Allora, vai con lo Scorpione. Diciamo che la luna piena dissonante di martedì vi porta un po' di nervosismo. Sarete un po' sottotono. Cercate di non farvi suggestionare troppo dalla vostra stessa emotività. Lo Scorpione è molto emotivo. A metà settimana ritorna la lucidità e la concretezza e sarete più in sintonia con gli altri. Nel fine settimana tanta voglia di emozioni. Wow, Scorpione. Grr. Marusso, Scorpione. Oh, saluti. Vai. E adesso vado col Sagittario. Sì. Perfetto. Nella prima parte della settimana ci sarà entusiasmo e allegria. Bei momenti da condividere con amici e partner. Nei giorni successivi non perdete l'entusiasmo, anche se il dovere vi chiama e se ci sarà qualche vega da risolvere. Siete molto meno pazienti del solito in questo momento e la colpa è di Marte, sempre Marte, Marte che ritorna. Non mollate al primo ostacolo, le iniziative più complesse, e nel weekend ricaricatevi godendo dell'affetto degli amici e del partner. Wow. E allora un grazie alla nostra Anna Rota, maga delle stelle. Noi ci siamo un attimo interrotti perché in chat, devi sapere, stanno inveendo contro Marte da tutti i pori, sì, proprio. Cioè, sto Marte dell'Imortè proprio. Esattamente, sì. E allora, grazie Anna Rota, non grazie a Marte, 2206, facciamo un saluto a questa fantastica rubrica che abbiamo aperto dalle stelle alle stalle, la nostra maga, ci vediamo domenica prossima, sempre qui su Salute e Felicità per la nostra rubrica delle stelle. Anna Rota, ci vuoi dare un ultimo consiglio a tutti? Io consiglio di emozionatevi, sempre. Anna Rota, sei la meglio! Alla faccia di Marte! Oh. Allora, raga, la prossima settimana insieme a Marte, emozionatevi. 2207, riprendiamo, ma perché? Che fa Marte? Pinklo, Marte fa un sacco di cazzate, proprio tante. Le riassumeremo forse dopo. Dicevo, 2207, ci prepariamo al The Best, alla cazzata di Salute e Felicità, ma adesso ci sentiamo un grande pezzo. Sono i Led Zeppelin con Wolada Love. Non lo, solo loro lo sanno pronunciare. Comunque, che dire? Che gli Zeppelin sono coloro che danno il via all'hard rock. Buon ascolto a tutte e tutti. Ed eccoci tornati di nuovo in voce e con ben 13 minuti di ritardo sulla nostra scaletta siamo pronti con la cazzata della settimana, ma prima la mitica Tina Turner. Un buon ascolto a tutte e tutti. E avete proprio vinto, signore e signori, avete vinto! Cosa abbiamo vinto? Che cosa abbiamo vinto? Avete qualche dolore? Qualche carenza economica? Le scarpe vi stanno troppo stresse? A Frodo, qual è la risposta giusta? Venite ad Ancona! Hai le scarpe troppo larghe? I vestiti ti vanno stretti? O ti vanno larghi? Si sono rotti gli occhiali? Ti è cascato l'iPhone per terra 4 volte consecutivamente? In una pozzanghera? Vieni ad Ancona! È iniziata l'operazione Acque Bianche. C'entrerà qualcosa con la Concordia? Che stronza! A livello acqua azzurra, acqua chiara proprio. Acqua azzurra, na na na na na. Non riuscite a trovare lavoro? Lo stress vi affanna e una canna non vi abbasta? E allora compratevi un biglietto per Ancona! Ancona! Ora, Ancona! Pensavate che era solo colpa dello stato di precarietà in cui, nel quale vivete? No, è che non andate ad Ancona! Sì, ho capito, ma che c'è Ancona? Forse è perché avete un posto fisso e vi sentite monotoni? No, vi sentite all'ergastolo. Chiaramente, liberalizzatevi e andate a Ancona. Perché ci siamo fissati con Ancona? Ecco la sigla che vi facciamo sentire per una delle cazzate più grandi del secolo. See? Ebbene sì, signore e signori, ritorniamo un attimino decenti perché va bene, vi abbiamo stufate. Se solo vi divertisse un 10% di quello del quale, nel quale, per il quale ci divertimmo in codesta sede, ahimè, non avreste più bisogno di Ancona! Ebbene sì, signore e signori, leviamo via la musica e ve lo diciamo. Ebbene sì, torniamo con un tono di voce più radiofonico. L'operazione in codice Acque Bianche è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera? No. Di Ancona? Sì. Che ha emesso provvedimenti di perquisizione e sequestro a carico di ben 4 persone. Vediamo dove è arrivata la sigla intanto. Ebbene sì. Al centro del raggiro lo studio che la biologa aveva aperto nel capoluogo marchigiano, con referenti in varie città d'Italia. Ebbene sì. Esercitando abusivamente la professione medica, gli indagati assicuravano dietro compenso la guarigione dei malati, spesso spingendoli ad abbandonare le terapie tradizionali per affidarsi a che cosa? Per affidarsi alle acque delle fonti dei due principali santuari mariani, quelli di Medjugorje, di San Damiano, Montichiari. Mescolando religione, superstizione e astrologia, i terapeuti approfittarono scusa, dello... Scusa. Prego, però, dimmi. Vuoi mettere viaggio ad Ancona e viaggio a Lourdes? Ma infatti secondo sì. Me Ancona, poi Trenitalia è una merda, si paga un sacco. Già a Lourdes ci vale un sacco di soldi. Trenitalia, pare che ci arriva la Ryanair. Ah, pure. Ancona. Vabbè, insomma, la cazzata della settimana è che un botto di gente è cascata nella trappola delle false cure con acque miracolose, denunce e sequestri in 4 regioni. Al centro del raggiro una biologa che con altre persone si presentava sul web con un team scientifico qualificato che aveva messo a punto una tecnica innovativa basata sulle acque di Lourdes e Fatima. Il blitz a Ancona, Milano, Venezia e Bari. Fra Ancona, quindi Milano, Venezia e Bari sono stati posti sotto sequestro 4 locali adibiti a studi medici e un laboratorio in cui venivano preparati in flaconi con le medicine. Il valore degli immobili chiaramente è di circa 3 milioni di euro e sequestrati anche 4.000 flaconcini e fiale di acque, un PC e varia documentazione, signore e signori. Ho una proposta, perché non li proviamo a dare, che ne so, a qualcuno questi 3 milioni di euro? A Salute e Felicità, che ci si compra i microfoni ad esempio. Madonna, che 3 milioni di microfoni, Ale! Vabbè, pure un mixerino, non è che... Ma io direi uno studio a questo punto. Alla faccia del placebo, comunque. Ma infatti sì. Comunque, voglio dire, insomma, quindi... È una grande cazzata questa cosa che è successa, ma penso che non è da mettere nel cassetto, nel senso che è una delle tante che vengono scoperte, ma di cose che scambiano la medicina e la cura per barzellette e fiocchetti colorati solo per prendere soldi, ce ne sono tante in Italia, tante in Europa, tante nel mondo, e sono due domeniche più o meno che prendiamo ad esempio anche le terapie riparative rispetto alle persone omosessuali, anche se, come dire, di distanza ce n'è tanta, perché da una parte si vuole vendere un flaconcino di acqua per curare delle problematiche fisico-psichiche, dall'altra si propongono e propugnano tutti con la P terapie che invece vogliono andare a correggere cose che non sono da correggere. Che cosa possiamo dire dopo questa notizia un po' della menghia? Che se avete anche voi una di quelle statuette bianche e celesti sul vostro comodino, iniziate a pensare che quella è la Madonna Santissima della Lazio piuttosto che di Lourdes, perché è molto più vicina a Lazio che a Lourdes Ancona. Signore e signori, che dire ancora? Vogliamo scorbellicarci ancora su questa notizia? Ma io direi che passiamo alla musica. Va bene. Passiamo alla musica, ma come dire, tiriamo anche una lancia a favore di invece dei professionisti e degli operatori della salute mentale, perché sostenere quelli che sono dei percorsi di difficoltà o di altro delle persone non è nulla a che fare con il vendere boccette, quindi non lasciamoci ingannare e non scambiamo i mercanti con tutt'altro, e non sono, come dire, le teste non sono commerciabili, quindi cerchiamo di evitare anche la diffusione di queste informazioni e facciamo una sana informazione su queste cose, no? sapevatelo, anzi, com'era. E allora vi lasciamo a un brano che il titolo, se non lo sapete, siete degli schifosi, perché vuol dire non vi state ascoltando la canzone. E l'artista ve lo dirà dopo la nostra pissicri. No, non ve lo dice? Non gliela fa. Simon & Garfunkel. No? Ah, volevi di te? Dai, ho pure di. Dai, va bene uguale. No, Simon? Volevo che lo indovinassero in chat. Vabbè, se sono attenti, attente. Va bene, allora. Va bene, allora la prossima, che è più difficile. Bevetevi un mezzo litro di Spick e Span, che vi fa meglio dell'acqua di Ancona. No, bevetevi un mezzo litro di vino, che vi fa meglio dell'acqua di Ancona. Fa sangue. Solo una cosa, certo. Nel senso che di tutta questa storia, ovviamente, il problema è quella biologa e gli amici suoi che in realtà speculano sulla disperazione delle persone. Questo è il vero problema. Assolutamente. Limorte, buon ascolto a tutti e a tutte. Ed eccoci di nuovo qui, come dire, io sono quella un po' triste della rubrica Salute e Felicità, sono sempre quella un po' meno felice e ora parliamo ma di... Ma un po' più in salute però, eh? Ma un po' più in salute, sì, dei due qui Gerottini sicuramente, molto più in salute di loro, però non so quanto fa... Storia una che si tiene la febbre per un anno perché c'ha sempre le placche alla gola. Che dire? Che la mia dire? È entrata nel Guinness, sto alla terza settimana. E dai, solo con una settimana di febbre, uno su mille ce la fa. Le placche sempre ce la fanno. Che dire? Prendo in prestito un caro giornalista di un giornale che era un gran giornale, che adesso è un giornale Il Manifesto. Che? Il Manifesto. Non sputiamo sul Manifesto, per piacere, grazie. Che dire, esordiva venerdì sulla prima pagina con una cosa molto divertente che volevo raccontarvi. E Marco D'Eramo ci diceva: il posto fisso dei monti. Che noia, signore mio, il posto fisso. Non per niente il lavoro a vita, gli antichi lo chiamavano in un determinato modo. Voi lo sapete? Ergastolo. Ergastolo, ecco. I giovani sono proprio strani. Signora mia, sti giovani, non li capisco. Lei li capisce? Io non capisco affatto. Non capisco proprio perché aspirino ad una tale condanna. Perché non ambiscono ad uno spassato, spassoso interinato. Beh, infatti sì, cocco cocco co, tutta la vita, no? Tu come me, d'altronde, e come l'altra cocco, io voglio capire quando diventeremo conduttrici e non cocco, così, la lancio così. Avete capito, poi a un certo punto vi scade il contratto, e poi vi mandiamo a casa, e ne diamo nuove. Noi ti facciamo avvertenza, bello. Allora, che dire? 70, e allora si apre la campagna di raccolta firme su Salute e Felicità, sulla chat, buttiamo fuori il conduttore e teniamo le co-conduttrici, votate no, il numero. No, no, non buttiamo fuori, aspetta, ci dobbiamo prima auto-organizzare all'interno, però. C'è assemblea, assemblea delle co-conduttrici. No, corteo. Allora, che dire, di oggi fresca fresca una notizia dell'Istat a proposito di questi famosi licenziabili, come Monti e la sua amica Fornero, che è sempre quella che era meglio che piangeva, perché sennò se parla, guarda, piangiamo noi, come dire. E allora... Che dire, l'Istat dice che sono 2,364 milioni di persone che hanno un posto a tempo determinato in questo paese, di cui 385 mila sono i collaboratori, quindi tutto il resto dei contratti, cocco, non mi ricordo più come si chiamano, visto che sono più di 45. Non è dato sapere che fine hanno fatto, perché il sommerso della precarietà non può essere, come dire, rilevato nemmeno dall'Istat. E quindi che dire? Che la flessibilità ammonta a 2,7 milioni, nel senso che 2,7 milioni di persone sono flessibili in questo paese, che in questo paese significa che non hai diritti, cioè che se cadi e te rompi una gamba, se ti viene la febbre e non vai al lavoro, se ti viene la febbre e non vai al lavoro, al lavoro non ti pagano, semplicemente. L'avevo detto che ero triste, eh? Però io vi ho avvisato, ho appena iniziato a parlare. Però mi sa che ce l'abbiamo presente questa, come dire, è triste, però lo sappiamo un pochettino come funziona, no? Dopodiché co-co-co-co-co-pro, insomma. Poi come, ne avevano tirato uno nuovo fuori, domenica scorsa l'avevi detto te il nome del... Il cui, chi conosce il cui vince una puntata gratis di Salute e Felicità da condurre la prossima volta. Sono d'accordo con Marusca, che in chat ci suggerisce l'Italia una repubblica affondata sul lavoro. Brava Marusca! Che dire? Ma che dire di questa ministra che l'abbiamo tanto nominata? Penso che, come dire, il governo è molto bravo, aiutato anche dal tempo. Mezza Italia è sotto la neve, la città di Roma è impazzita per una giornata di neve e zitti, buoni, stanno facendo passare, come dire, l'ennesima stangata a chi qualche piccolo diritto ce l'ha, perché... anni 70, come dire, stiamo facendo una puntata sul rock, ci eravamo proposti un sacco di cose di rispetto alla politica degli anni 70, però sono le 22:33, quindi è un po' difficile dire tutto quello che volevamo dire. Però che dire, che la ministra Fornero sostanzialmente, senza dare un testo scritto ai sindacati, per cui non so se tutti sanno che ci doveva essere un tavolo, eccetera, eccetera, ha detto in soldoni: la riforma o si fa come dico io o si fa come dico io. Per cui non mi pare che ci sia molta scelta. O si fa o si fa. Quando si dice un governo autoritario, insomma, no, un attimino così, te lo dico e te lo proprio chiaramente, insomma. No, non autoritario. Democristiano. Scusate. Cioè, come dire, ti faccio scendere la pillola con un indolore, così. E chiaramente il governo democristiano, per far scendere la pillola, bevi l'acqua di Lourdes fatta ancora. Che facciamo, L'abbiamo pure fatta a casa, mo l'acqua di... C'è bisogno di andare a Lourdes o a Meciugori? No. No, no, andate ancora, ci mettete un attimo. 3 ore di treno, di diretto, sempre se esiste ancora il diretto, io non lo so. Sì, c'è, però costerà 74.000 euro. Più o meno. No, il diretto no, ci metterà 74.000 ore. Il vecchio buon diretto, quello che si chiama diretto, insomma. Sì. Diretto. Diritto. Ma diritto o diretto? A proposito di diritti, io mi chiedevo e tutti ci chiedevamo, ma l'articolo 18 che fine fa? Che fine ha fatto? Che dire, la simpatica sempre ministra Fornero ci dice che secondo lei sono giusti i licenziamenti per motivi discriminatori. Ora io vorrei chiedere alla ministra Fornero che significa. Cioè, discriminazione per cosa? Sesso? Discriminazioni sessuali? Discriminazioni... Non lo so, mi viene in mente qualche altra discriminazione? D'orientamento, di colore... Di colore. Di colore. Di genere. Di genere. Uh-huh. Non si capisce. Vabbè, se sei donna rimane incinta, se sei froscio, se sei se sei lesbica, se sei mascolina, se sei nero e non si capisce, e quindi non si può fare. Che dire, praticamente mentre sono accettati i licenziamenti per motivi economici, cioè se un'azienda dice sono in crisi, licenzio, è giusto. C'ha ragione, l'azienda non ha i soldi per pagarti. Questa mi sa che è amica dei padroni, la cacciamo a questa. Vedi a che serve il contratto Cococò dai conduttrici, Sì, sono d'accordo, manteniamolo. E quindi, insomma, avremo anche altre cose da dire relativamente all'articolo 18, però vi vogliamo lasciare un altro pochettino di musica, chiaramente. Intanto vi annunciamo che abbiamo una ricetta che il nostro mitico cuoco, nonché amichetto Frufru, ci dà ogni settimana sul suo blog. Il suo blog è artfoodandothergaythings.wordpress.com e questa ricetta che vi diremo dopo è proprio come curare, creata per curare, come cura sensoriale contro la rabbia inespressa. A proposito di rabbia inespressa, già che ci sono, vi volevo dire questa cosa, che probabilmente a questo punto ne parleremo la prossima settimana, anche invitando colei che ci ha mandato il link su un articolo che è uscito, che intitola Schizofrenia e disturbi sociali, studio italiano ne svela la natura. D'altronde qui ci stanno tre matti che curano i matti, e quindi, come dire, essendo matti, prima o poi faremo anche una fantastica rubrica Psy, mettiamola così, una rubrica Psy. E nonco. Ronco? Blocco. Nonco. Nonco. Psy, nonco. Vabbè, la conduttrice non mi viene dietro questa sera, purtroppo. E vabbè, ci si prova. Quindi, cara Evadne, ti chiamo così, che non è in chat ma ci sta ascoltando, grazie di averci shareato questo link di questo articolo molto interessante e ti invitiamo a studiarlo e a proporlo la prossima settimana in diretta qui su Salute e Felicità, perché d'altronde sì, ci chiamiamo Salute e Felicità per qualche motivo, no? Beh, assolutamente. Prima della prossima canzone, che non vi dico come si chiama, ma vi dico semplicemente che è legata ad un film in cui c'è un soggetto molto interessante dello star system hollywoodiano. Nonché un gran figo. Dipende dai punti di vista. Vabbè, allora lo dico io, un gran figo. Ok, questo gran figo si chiama Jack Nicholson, vabbè. No, ma non era Jack Nicholson. Ah, certo che era Jack Nicholson. Va bene, se mi dite il titolo del film, vincete comunque una puntata gratis da condurre di Salute e Felicità. Buon ascolto con The Birds and... Aspetta! Aspetta. Ha sempre qualcosa da dire. Eh sì, c'ha la frase quella figa da dire, che quella di prima non si è capito se l'avete capita, ma questa sarà più semplice. Information is not knowledge. Knowledge is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is everything. Città 2239. Sì, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. E per chi mi sembra che in chat non è arrivato niente, quindi ve lo dico io, questa era The Ballad of Easy Rider dei The Birds, ma c'è la mia conduttrice che forse vuole dire qualcosa, visto che c'è sempre qualcosa da dire. No, stranamente non c'ha niente da dire. Si è acquietata. Sta giocando in chat. E che dire, abbiamo ascoltato fino adesso The Birds, ma volevo dire anche ancora qualcosa, perché la scorsa settimana, non so se tutte e tutti eravate in ascolto, c'era la questione della cassa integrazione e pare che la Fornero abbia fatto un passo indietro sulla cassa integrazione. Ah sì? Eh sì. Che dire, la nostra ministra dice che si può ottenere sia la cassa integrazione di tipo ordinaria, cioè quella che quando l'azienda è in crisi temporanea e quando la crisi è imprevedibile, quindi i lavoratori e le lavoratrici vanno in cassa integrazione, questa può essere mantenuta, e anche la cassa integrazione straordinaria, cioè la crisi, quando c'è una crisi o una ristrutturazione generale dell'azienda. Anche se, come dire, un passo indietro lo fa facendo, come dire, fa uscire dalla porta la cassa integrazione e fa rientrare l'abolizione zitta zitta dell'articolo 18 dalla finestra e non dice niente sulla mobilità. Vabbè, che dire. Che dire rispetto a questo paese, che dire rispetto alla questione dei sindacati, che vista la situazione che i politici di questo paese continuano a raccontarci, oddio c'è la crisi, oddio non lo sapevamo, oddio come dobbiamo fare, dobbiamo stringere tutti la cinghia, i sindacati hanno deciso, bravi bravi, buoni buoni, di non fare battaglia, ecco. E quindi... no, non è proprio una novità questa, diciamo, di fare battaglia fino a una certa, proprio, no, sindacati. No. Anzi, la CISL, che non ci stupisce, dice che bisogna tenere d'occhio i tempi, cioè visto i tempi non è proprio il caso, Ma la cosa divertente è che poi sta gente c'è sempre il posto fisso, cioè, no? Come dire, Bonanni, vai a lavorare te, Bonanni, fate fa un bel cocco pro. Un cococò e vai a lavorare te alle 7 di mattina, ma che vuole sta gente? Cioè? Non lo so, è uno tra l'altro che avrà anche la pensione, ma voi le pensioni, cioè ve lo ricordate quello che è successo il 4 dicembre? Come facciamo? Cioè, si contavano che le persone che sono prepensionate, o i cosiddetti pensionati precoci, che ora non possono più tornare nel mondo del lavoro, sono circa 70.000. Beh. Però la riforma delle pensioni non si tocca. Lo spread è sceso. Quindi, se teniamo la riforma delle pensioni. Ecco. Questo dice la ministra Fornero. Su questa cosa, che dire? Diciamo che mettiamo un po' di musica, perché sennò diventiamo noiosi e noiose. Per cui vi lasciamo con un grande pezzo dei Velvet Underground. E ditemi voi che cos'è, perché vediamo un po' se vi attivate. E un buon ascolto a tutte e tutti. Heart. fancies, chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. And cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Eccoci di nuovo tornati in voce. Che succede? Succede che vi avevamo promesso una fantastica ricetta come cura sensoriale contro la rabbia inespressa, ovvero lo spezzatino di manzo allo zafferano e funghi porcini. Il mio amico me ne vorrà, ma io dico spezzatino di soia. Spezzatino di soia viene buono uguale. E ora vi leggiamo la ricetta, se siamo in grado di fare una sintesi, vero? Chiaramente, chiaramente siamo in grado di fare una sintesi. Allora vi ricordiamo che il blog del nostro amichetto caro è Art Food andothergaythings.wordpress.com. E allora, tralasciando le prime righe che sono palesemente di sbrocco, proprio perché nasce dalla cura per la, contro la rabbia repressa, lo spezzatino di manzo allo zafferano e funghi porcini con risotto alla cremolada, chiaramente di manzo, ogni volta che dico manzo ascoltate anche un po' soia, dipende dalle vostre orecchie, si fa più o meno così. Vabbè, diceva abitudini culinarie. Diceva, innanzitutto ci dà un'informazione, il vero ossobuco alla milanese, le maiuscole sono obbligatorie, esiste una vera ricetta con tanto di delibera del comune di Milano, che vi credete, era buono, buonissimo, la carne era tenera, eccetera, eccetera. Ma l'ossobuco non ce l'hai, cof cof, impossibile prevenire battutacce della platea. Allora, i 12 grossi grassi parallelepipedi di carne bovina, bovino adulto, tozzo e rosso scuro. Che ci vuoi fare? Giusto uno spezzatino, facendolo cuocere tanto che si sa che la carne del supermercato non è mai tenera. Dandogli sapore, dado da brodo, forse, latte, cipolla, burro, vino rosso, ma più delicato. Poco vino, non un brasato o uno stufato. Forse lo zafferano ci starebbe bene, e magari quell'avanzo di forma, e si costruisce un'ipotesi e lo macina la regina troppo sulle ragioni che ti hanno fatto scegliere quella confezione di carne. Piano piano lo spezza manca però. Nella costruzione del sapore del piatto, della cena, manca decisamente qualcosa. Del riso, banale ma è così. Un risottino. Sì, ma mica fatto con le stesse cose che stanno dentro lo spezzatino. Sarebbe piattissimo, monocorde, flat, direbbe Gordon Ramsay. E chi sono io per mangiarmi uno accompagnamento? E quindi risotto, meno grasso, più pungente. Perché non provare esattamente quel je sais très bien quoi? In più che rende l'osso. E quindi, che c'era nella cremolada? Limone, zucchero, aglio, prezzemolo, acciughina, con l'osso buco, ok. E con la cremolada. Stiamo invertendo un po' tutto, ok, controcorrente, a rebur. Eccolo qui, cipollina rossa, brodo, limone, zeste, acciuga, sfarzi, il risottino è fatto. Il parmigiano è pronto, lo spezzatino pure, che nel frattempo... C'è il libro intanto, no? Chiaramente sì, e quindi l'esperimento riesce, vi invito a questa ricetta sul blog artfoodandothergaythings.wordpress.com e a seguirlo a rebur, lo spezzatino di manzalo, zafferano e funghi porcini, con risotto alla cremolata, espressa proprio perché mi pare che dire sia un pochettino, parlavamo prima di articoli 18, 188, com'era quella? È breve ma intensa, come sempre, come sempre, come tutte le storie denominate sono brevi ma intense. Che dire di te? Qualcuna di noi lo sa, e dico qualcuna non a caso, perché parla delle famose dimissioni blu. Sai cosa sono le dimissioni in bianco? Che va in bianco. È un fantastico foglio e tuffi, metti la tua di lavoro, gravidanza, se hai un matrimonio o se sei uno straniero in questo paese, può rifilarti la letterina famosa e dire ops, l'hai firmata e quindi ti licenzio perché l'hai firmata. Quindi la legge 188/2007 cosa faceva? Faceva sì che questa cosa non avvenisse. Ovviamente, legge che passa sotto il governo Prodi, ma appena arriva il vecchio buon ministro Sacconi la abolisce così subito, per cui che cosa io volevo segnalare? Che sono state raccolte delle ben 188 firme per ripristinare questa legge. Ovviamente questa legge è stata firmata un po' da attrici, cantanti, chi più ne ha più ne metta, però come dire, la causa ci sembrava giusta, nel senso che in un paese in cui appunto ci tolgono l'articolo 18, lo statuto dei lavoratori viene cancellato, i sindacati fanno il gioco del governo, la manovrina uccide sostanzialmente e pesca sempre nelle tasche dei soliti, le accise, l'IMU, chi più ne ha più ne metta, anche le dimissioni in bianco, no grazie, grazie, no grazie, però dopo questa botta di tristezza ve ne aggiungo un'altra. Perché, come dire, io sono sempre la parte più triste della trasmissione, ed ecco che sempre da una ricerca che viene dalla Fondazione Moressa, la fondazione che si occupa di UNE, la notizia è che secondo i giovani immigrati lavorano di più rispetto, come dire, agli italiani, ma sono anche quelli più sfruttati, quelli più sottoposti a turni faticosi, e soprattutto quelli che non hanno un lavoro che non è adatto al loro titolo di studio, questo anche gli italiani dobbiamo dire. Però la domanda è: perché continuiamo a considerare le cosiddette seconde generazioni non cittadini? Perché li consideriamo cittadini di serie B? C'è una canzone che è di Frank Zappa, Joe's Garage. Un buon ascolto a tutte e tutti.

23 qui su Salute e Felicità. Un saluto a Vale che è entrata in chat. Questa chat mi pare sempre più un gruppo tipo di autoaiuto. Entra qualcuno, ciao Vale, tutti, ciao Vale, ciao Vale, ciao Giorgio, ciao Giorgio, ciao Giorgio. Ma non vi preoccupate, siamo affetti tutti dalla stessa follia ed è quella follia che ci fa sentire così esprizzanti e colorati. E allora 23, abbiamo superato le 23 e noi non torneremo più a casa, ole. E Salute e Felicità va avanti, continua a oltranza almeno per un'altra mezz'ora, perché di artisti e di gruppi ne abbiamo tanti e vogliamo ancora parlare di musica e anche di qualche altra notizia che è uscita questa settimana. D'altronde abbiamo deciso di parlare di rock e quindi almeno due ore e mezza, come dire, ci sono concesse. L'altra notizia della quale scusate, ma intanto sto girando una sigaretta, quindi il rumore che sentite è la cartina che si strappa dolcemente. L'altra notizia, sempre un po', come dire, triste e rabettimana, è in linea con le notizie della scorsa settimana, dove di che abbiamo parlato la scorsa settimana? Di due settimane fa. Di che era successo? La sentenza della Cassazione che diceva che non era... non me la ricordo bene, quindi chi è che è in ascolto di giurista me la passi, grazie. Che, come dire, non era un reato grave se la vittima non aveva fatto resistere di violenza sulle donne, violenza sessuale di un uomo su una donna. E allora, se due settimane fa ci dicevano che se non fai resistenza non è considerata violenza sessuale, questa settimana ci dicono che è stato, come dire, la violenza sessuale di gruppo è diventata o ha un attenuante. Allora, innanzitutto diciamo questa cosa che direi che è abbastanza interessante, nel senso che il delitto di violenza sessuale di gruppo è stato introdotto nel codice penale italiano solamente nel 1966. Cioè significa che fino al 1996 le violenze sessuali di gruppo non venivano condannate rispetto a un, come dire, a un articolo di legge in particolare. E questo è abbastanza gravoso e penso ci fa inquadrare molto bene qual è la situazione in Italia. Non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato anche due domeniche fa, la sentenza del 1999 che dichiarò l'insussistenza dello stupro perché è incompatibile con il fatto che la vittima indossasse dei jeans. Per cui, come dire, negli ultimi 15 anni il corpo delle donne ne ha sentite di cotte e di crude, una volta perché si portavano i jeans stretti, un'altra volta perché la maglietta era troppo scollata, un'altra volta perché non si opponeva a resistenza, l'altra volta perché si metteva la minigonna, ma la violenza sulle donne non è mai stata presa in considerazione realmente come lo è realmente poi la violenza che subiamo sui nostri corpi. Questa sentenza della Corte, diciamo ci sbaraglia un po' e ci fa sobbalzare sulle sedie a diciamo tutte le donne, tutte le femministe e tutte le lesbiche che in questi anni hanno cercato di fare una politica contro la violenza più grande e informativa possibile. Ricordiamo anche la manifestazione che c'è stata ormai quanti anni fa? Tanti anni fa ormai. Ormai tanti anni fa contro la violenza sulle donne, e oggi ancora abbiamo una nuova minaccia, una nuova spada che ci cala sulla testa, appunto questa dell'attenuante dello stupro di gruppo. Cosa significa? Che il magistrato può decidere liberamente se dare l'attenuante o no, cioè a sua, come dire, è a sua libera interpretazione. Se lo stupro avviene ed è di gruppo, probabilmente chi ha subito violenza non verrà messo in carcere, probabilmente gli verranno dati gli arresti domiciliari. Che dire? Ottimo modo per svuotare le carceri, effettivamente potevamo proprio partire da qui, no? Questi geni del crimine. E diciamo che fra l'articolo 18 e questo sullo stupro di gruppo non è che andiamo indietro, ritorniamo veramente a, come dire, a una condizione sociale per cui il corpo delle donne può essere abusato perché sono le donne che invogliano e quindi, come dire, si abbandona totalmente uno status di tutela e di prevenzione e si va verso sempre di più alla strumentalizzazione, a una violenza, come dire, gratuita e permessa. Dopo questo siamo arrivati alle 23.08 e ritorniamo con la musica, finalmente con una voce di donna, con una voce di una grandissima donna. Lei è Janis Joplin, che sicuramente ha lietato le orecchie e i cuori di tutti noi anche con i suoi testi e la rabbia che veniva espressa tramite quelle canzoni. E, come dire, mi piacerebbe che anche oggi riuscissimo, fra i nostri vari strumenti di lotta e di resistenza, a riprendere in mano quello che era la musica e quella che era la diffusione delle informazioni anche per altri canali. D'altronde è quello che proviamo anche a fare un po' qua con Salute e Felicità. Quindi anche è stato uno dei primi brani che ha introdotto 7-8 anni, se non sbaglio, di musica fatta con il suo gruppo, che erano i Big Brother and Holding Company. E buon ascolto a tutti e a tutti, 23.09, saluto e felicità. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ed eccomi ed eccoci di nuovo qui, 23:13, non riusciamo proprio a finire in orario, ma che dire, ci piace stare con voi, niente da aggiungere alla meraviglia, come diceva la conduttrice che mi ha preceduta, ci ha emozionate, ci ha fatto venire la pelle d'oca ogni volta che l'ascoltiamo, solo una cosa, ricerca dei gruppi e delle persone che hanno addossalmente l'unica donna, Janis Joplin. Se non vogliamo metterne solo le cantanti tipo Nico dei Velvet Underground o la cantante dei Jefferson Airplane, di fatto, come dire, l'unica che riesce a salire sul trono di donna del rock è Janis, quindi, come dire, tanto ci piace tanto. Che dire di donne che resistono? Non so se tutti e tutte quelle che sono in ascolto sanno di quello che sta succedendo a Via De Volsci, una via di Roma, dove tutti sappiamo che c'è il 32, storico centro sociale dell'autonomia romana, che chi dice che non è più un centro sociale, ma una trattoria, eccetera, eccetera, non ci imbattiamo in questa cosa, però c'è anche un posto occupato da ben 30 anni da femministe e lesbiche, che ogni anno... hanno subito, anzi, per anni le bombe carte gli distruggevano la porta. Questa cosa purtroppo non si verifica più solo a Capodanno, ma si verifica quotidianamente. È del 25 gennaio l'ennesima notizia per cui hanno imbrattato la porta, hanno imbrattato i murales davanti alle sedi delle femministe e lesbiche e hanno chiuso i lucchetti con l'attac per evitare che le donne potessero entrare nella sede che da 30 anni, come dire, difendono strenuamente. Guardie, ma non solo. Non solo, anche da una via che non è più amica, forse non l'ho mai stata, però su questa cosa la prossima settimana con un intervento diretto delle compagne che sono impegnate nella difesa del 32, eccetera, eccetera, del 22, scusatemi, un lapsus molto interessante, direbbe qualcuno, del 22, però vi vogliamo lasciare con un appuntamento importante, il 3 marzo, a Via De Volsci 22 e su tutta Via De Volsci ci sarà una street art, perché ci piace molto essere, come dire, così international, perché fa più figo dire una street art piuttosto che una strada di arte, quindi diciamo street art o corte, no, una street art in cui contro il sessismo, la lesbofobia e contro, come dire, chi vorrebbe che quella sede fosse abbandonata, e noi gli rispondiamo nemmeno per sogno, per essere gentili, e quindi, che dire, vi lascio ad un altro po' di musica, visto che vi ho tediato, e vi lascio con un grande pezzo di un grande chitarrista che fa parte della maledizione delle J, Hey Joe, di... Jimi Hendrix. Oh, ce l'ha fatta. E allora buon ascolto a tutte e tutti. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey lady, you know I caught her messing around with another man. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Allora, siamo tornati in onda, 23:23, e noi non gliela famo davvero più a smettere con questa trasmissione. Avremmo altre 940 notizie. Innanzitutto siamo davvero contenti quando in chat si scatena il putiferio come prima, si parlava di, insomma, di un po' di argomenti, dal lavoro alle donne, eccetera, eccetera, e quindi giustamente Giorgio suggeriva che l'Italia si potrebbe dare una punta collettiva intera coi forconi, e quindi... insomma, va bene, ce lo auguriamo davvero tanto. Come l'altra volta abbiamo parlato di quello che era un blog, si chiama bollettino-di-guerra.roblox.org, che parla di cronache quotidiane di violenze maschili sulle donne. In realtà purtroppo c'è un'altra violenza che vi dobbiamo raccontare, e ci teniamo particolarmente, e ci teniamo anche particolarmente a fare attenzione ai mezzi di informazione che utilizzate, perché ogni volta che cliccate o che scrivete sul vostro browser il nome o l'URL repubblica.it, sappiate che state facendo una delle idiozie più grandi del mondo. Questa è una di quelle tante notizie che davvero Repubblica non smette mai di dare e di scrivere in questo modo, di battere così da veri imbecilli del 1400, e insomma rispecchia anche molto quella che è la politica del partito di cui che è proprietario, appunto, di Repubblica. Vi invitiamo ad andare su altri siti di informazione, che possono essere ad esempio Indie Media o altri vari eventuali. Scartate Repubblica, vi prego, proprio perché qualche giorno fa scrive: scoperto cadavere di un viado, potrebbe essere un suicidio. Il corpo ritrovato dal convivente che ha dato l'allarme al 113, la vittima si faceva chiamare Patrizia e aveva un coltello conficcato nel torace, due fondenti al petto, la lama di un coltellaccio da cucina piantata nello sterno, una maglietta annodata stretta attorno al collo e la porta di casa chiusa, le chiavi all'interno. Nella fine di Patrizia il nome d'arte, cioè non lo so, che si era scelto Barrus Gutenberg da Silva, 36enne, viado brasiliano, non c'è molto altro. Nemmeno se quelle due coltellate vibrate nel misero monolocale di via Montalbino 92 gliele abbia inferte il suo carnefice, o se abbia invece deciso da sola e nella maniera più cruenta e teatrale di farla finita con una vita di stenti, con le crisi depressive che raccontava di avere e che cura con qualche ansiolitico autoprescritto. La squadra mobile, diretta da un cretino, procede al momento per omicidio. Con lo stesso titolo, il pubblico ministero di turno Luca Gaglio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, in attesa di avere qualche dettaglio in più dall'autopsia disposta per domani. questo solo il primo pezzettino di una notizia scritta davvero coi piedi, se non, non si capisce come si possa ancora nel 2012 non aver imparato la parola transessuale. Non si capisce come ancora nel 2012 non sia capace di nominare una persona con il nome che ha scelto a 36 anni, quindi abbastanza adulta, voglio dire, per scegliersi un nome e chiamarla Patrizia senza sentirsi in dovere di aggiungere una roba tipo e dire nome e cognome di questa persona da, diciamo, da uomo. Come se, ah beh, allora sì, si chiamava Barrus, no? La trans, anzi il viado. E poi, tra l'altro, siccome queste persone spesso sono anche migranti, e spesso anche costrette a prostituirsi, dare a sottintendere innanzitutto che probabilmente questa persona c'ha un carnefice, no? Qualcuno che, quindi dare a sottintendere chi l'ha pagata perché si prostituiva, quindi aprendo risvolti che in realtà non si capisce perché una li debba aggiungere in un articolo del genere. E poi, tra l'altro, continuando, insomma, con nomenclature di tutti i tipi, a cui tra l'altro appunto quella stessa di Viado. Non lo so, come se uccidessero Mario Monti con due coltellate al petto e poi slaccio da cucina piatta dello sterno una cravatta annodata intorno al collo e la porta di casa chiusa, le chiavi all'interno. Di certo nella fine di Mario... Attento che ti arrestano per terrorismo rosso. Ho capito. Nella fine di Mario, il nome del presidente che si era dato, che in realtà si chiamava Mario Monti, 72enne imprenditore italiano, non c'è molto... che vuol dire? Imprenditore, no, ti sei sbagliato. Come? È del presidente vecchio quello. Ah, professore, vero? Vabbè, professore, vabbè, lavorava pure alla... Cioè, proprio aggiungere sulla morte di una persona per scrivere diciamo quelle 30 righe che chiaramente Repubblica pagherà a riga anche questo da fare durante il soggiorno, che scrivere queste cazzate, scusate per la parola cazzo, però vabbè, ecco, chiaramente, mentre a Patrizia, che viene trovata a casa, gli fanno un bell'articolo in cui la infamano riga dopo riga dandole il suo vecchio nome, che magari se si chiamava Patrizia non aveva più voglia di sentire in realtà, dicendo che molto probabilmente aveva un carnefice, che forse è un suicidio con due coltellate al petto, e invece poi chiaramente Sandro Giuliano, capo della squadra mobile, insomma, che lui sì sta facendo il suo lavoro, no? Come la Viados di cui abbiamo scritto qualche rigo prima. E quindi un abbraccio e un bacio, fa bene, ci stia sentendo da qualche parte, noi ti vogliamo bene. E allora, giusto per riprendere qualcuno in chat che diceva, dal posto fisso si dà due coltellate nel petto in modo... Ai, ma dato che Frodo diceva qualcosa su Repubblica, volevo aggiungerne anche un'altra io, che notavamo proprio quanto che succede a Roma, tipo la nevicata, vai sul sito e ti trovi le foto dei lettori. Nevica, ci stanno foto perché aspettiamo le foto dai lettori. E tutti quanti che dal proprio iPhone, dal proprio cellulare, dal perché tap, non fanno altro che uploadare foto su un sito che in teoria dovrebbe fotografare per il loro mestiere e... Dato che Repubblica o freeware o altro per cui serve sostenerlo in maniera collettiva, come invece si dovrebbe fare con altri siti, non postiamo più le foto valorandosi del contributo orgoglione di tutti quelli che adesso hanno una macchinetta fotografica per le loro testate quotidiane. Dategli una capocciata invece di riempire testate quotidiane e facciamo in modo che anche chi, come dire, della fotografia o del giornalismo ci fa un mestiere, di in qualche modo di garantirlo, perché se continuiamo così veramente i fotografi e le fotografe andranno tutti a spasso, perché c'è gente che mette le sue foto su Repubblica e su altre testate giornalistiche. Io direi col cazzo, cioè nel senso, abbiamo altri modi di condividere le nostre immagini e facciamolo su altri canali e come dire, sosteniamo anche i lavoratori e le lavoratrici di questi giornali poracci. 23:30, abbiamo sforato anche la mezz'ora che ci eravamo dati in più di Salute e Felicità, quindi facciamo così, quarto d'ora, dai, ce la facciamo un altro quarto d'ora, tanto qua arriva la grappa, raga, quindi ciao proprio. Rimaniamo un po' in tema con il prossimo brano. Niente, mi si guardava così. Andiamo su un gruppo che nel 2005 ha registrato dischi venduti di cui 74 milioni solo negli USA. Gruppo che poi ha dato vita e ha influenzato i Genesis, Yes, Nine Inch Nails, 3, Ma chi sono questi? Sono loro, i mitici, inconfondibili, meravigliosi dal mio punto di vista, Pink Floyd. E ora ascoltiamo una canzone veramente bella, Money. Allora, per chi non avesse capito, capisse, è chiaro che il riferimento a chi fa soldi sul lavoro degli altri era palese, e quindi in questo ci sì, qua scartano roba vicino al microfono, e ci becchiamo anche un po' di news. Un'altra cosa di cui chiaramente vi volevamo parlare è ACTA. In realtà ACTA è collegato a un altro test, a un altro testo, scusatemi, che appunto prova a vietare in tutti i modi quella che è la quello che state ascoltando è chiaramente una radio, un contenitore, un'idea abbastanza pirateggiante, proprio perché abbiamo molto volentieri deciso di declinare tutti gli inviti a pagare tasse e controtasse per farvi ascoltare quelle che sono le notizie, ma proviamo a darvele in maniera abbastanza indipendente. È saltato in Italia il bavaglio al web, 365 per, voti per gli emendamenti. La norma introdotta in commissione alla Camera su iniziativa della Lega è stata cassata dall'Aula con l'approvazione di 6 identici emendamenti soppressivi che hanno cancellato il discusso articolo 18 del testo. Questa legge si chiamava la legge Fava, cioè avete presente? La legge Fava, dal no. Quelle che si mangiano? Sì, sì. E noi siamo tutti tanti. Sono allergici. Ecco, allergici. Questa è la. E il nome ecco, è già da introdurre questa norma in commissione. E come dire, questi emendamenti sono passati con 365 voti a favore, 57 contrari e 14 astensioni. Era una cazzata più grande di tutti, però purtroppo, come avete potuto notare, è molto più difficile vedersi una bella puntata del telefilm che ti piace sul computer. Oppure di un film, ridateci mega video. Proprio perché appunto con ACTA, SOPA e PIPA, che sono queste tre versioni differenti di legge, ACTA è europea, ve ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, SOPA e PIPA sono due testi di legge che si stanno discutendo adesso negli Stati Uniti, insomma, si prova a limitare il più possibile quella che è la libertà delle persone sul web, nella maniera cioè nello specifico ACTA, diciamo, e diciamo dalla responsabilità degli illeciti legali ai danni dei diritti dei copyright, diciamo, a quelli che sono i gestori delle linee telefoniche, il che vuol dire che se tu hai Alice e per caso ti scarichi un filmetto, poi Alice ti taglia la linea ed è, siccome sa chi sei perché hai il tuo numerino, il tuo indirizzo IP, chiaramente ti imbocca a casa e ti dice ah oh, mo paga, e quindi ti fanno mortacci loro. Sì, infatti, da, diciamo che il senso di ACTA, lo scopo di ACTA è appunto dare tutti gli oneri e onori delle pene, diciamo, di quelli che sono degli illeciti sul web, proprio ai service provider, ISP, Internet Service Provider, che vuol dire che la ditta con la quale hai stretto un contratto per andare su internet ti può, diciamo, incorrere. Al momento ACTA è stata firmata e un po' è passata in Europa, ma ci sta un bel movimento. Se andate su YouTube e scrivete anche ACTA, trovate un video fighissimo in inglese che vi abbiamo passato interamente la volta scorsa. E che dire, quindi altra gente che prova a farsi i soldi sul lavoro di altri, altre persone che provano in maniera indipendente a sharare formazione, comunicazione e musica, come questa piccola transizione di fase che state ascoltando in questo momento. Allora, se le mie co-conduttrici, cosa che vedo, non hanno vogliono dire, c'è una cosa che vogliono dire, come al solito. Io dico. Sono arrabbiatissima per questa cosa di mega video, cioè mi hanno rovinata praticamente. Io dico, a questo punto, cinema sociale per tutti e tutte. Scusa, tu non mi fai scaricare i film? Non me li fai vedere? Perché non funziona niente? Allora, io vado al cinema. Se tu mi facessi andare al cinema 3 volte, come dire, non ti dire niente. Poi dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende, diceva Rabe De Palo. Per cui dipende dai tuoi gusti. Se al cinema non ci vuoi andare, non ti vuoi vedere film, libero. Però, cioè, Un bel film a casa, nevica, non puoi manco uscire perché c'hai un motorino sfigato. Scusa, se non c'è il motorino, abiti all'Alessandrino, i mezzi, nemmeno se li prendi alle ore 8 del giorno di venerdì e passano, te puoi muovere. Io dico, qua c'è Tolka, fa qualcosa. Intanto ascoltiamo un po' di musica. Assolutamente sì. Allora salutiamo Fluxus, che è appena entrato in chat. Ciao Fluxus, ecco. Anch'io non bevo da 2 settimane. Ebbene sì. E allora, dopo Money dei Pink Floyd, ci andiamo ad ascoltare un altro gruppone. E non lo so, stiamo sforando anche il quarto d'ora aggiuntivo che ci eravamo dati alla mezz'ora aggiuntiva alla Basta puntata. Non guardare l'orologio. Va me. Bene, allora sono le 21:45. Noi torniamo indietro fino a quando c'è qualcuno in chat, qualcosa la possiamo dire. Non so, qua muovo il microfono in maniera. Però io farei, cioè, tipo un annuncio, nel senso che Casomai qualcuno andrà a dormire perché domani sarà un'altra fantastica giornata di lavoro sotto la neve. Quindi a chi ci sta salutando, salutiamo e ringraziamo per l'ascolto qui da Salute e Felicità. E vi invitiamo alla terza puntata. E come avete notato da questa seconda puntata, insomma, Salute e Felicità si sta strutturando un po' di più. Quindi volevo spendere giusto questi 5 secondi. Felicità cresce, ma cresce anche con le idee di chi ci ascolta e di chi vuole partecipare a questa trasmissione. E anche per questo, forse perché abbiamo parlato di ACTA e di condivisione libera sul web, quindi come dire, spammate www.transizionedifase.org, una radio libera e indipendente, così ci piace, così ci piace la musica, i film, il teatro e tutto il resto. Noi intanto andiamo avanti, chi resiste di più vincerà un intervento alla prossima trasmissione, giusto? Giusto. Vi lasciamo con i Great Full Dead? No, no, ah no, siamo passati al surf rock, quelli d'inizio puntata, sono le 23:43, io direi che ci sta proprio tutta qui e stiamo andando giù de grappa, alzate la musica, ci dispiace per i vicini, bella per voi, salute e felicità, Beach Boys. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. So fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? We'll be right back.

Ed eccoci qui per salutarvi tutte e tutti. Abbiamo ascoltato prima i Beach Boys con I Get Around e adesso poi Bob Dylan con Like a Rolling Stone, e adesso erano di nuovo i The Bears con Mr. Tambourine Man. Tra l'altro conosciamo penso tutti e tutti una versione di Mr. Tambourine Man di sempre di Dylan. Che dire, siamo tornati negli anni 60 con la musica, abbiamo fatto un po' di salti qua e là. Ancora sugli anni 60 volevo dire qualcosa ma l'ho dimenticata, per cui va bene così. Va bene così. Mm-hmm. Scusate, stavo mangiando un crackers. È stato un excursus, diciamo, la seconda puntata che abbiamo dedicato a un excursus nella musica rock. Chiaramente è un discorso che non si esaurisce, quindi probabilmente c'è bisogno di parlare di altro, anche un po' di italiani, che probabilmente era la cosa che ti ripeto. Bravo, grande. Allora, che dire, abbiamo passato sulla musica straniera? Non perché siamo nazionalisti, ci mancherebbe, cioè lungi da noi essere nazionalisti. Perché se sta musica siamo nazionalisti, siamo finiti, sulla pasta, sulla pizza, va bene, però... Che dire, perché gli italiani avevano una brutta espressione di quel periodo, quindi abbiamo deciso un po' di fare questo colpo e dire ok, passiamo un po' la musica che ci piace, che sappiamo che ci accompagna. Ah, vedi, potevamo passare in realtà, visto che siamo quasi arrivati al 1970, una fantastica canzone degli Area che si chiama Gioia e Rivoluzione, però la passeremo, promesso, la prossima volta. Per iniziare il periodo 70, 80, 90 fino ai giorni nostri. Sì. Allora, i miei, più. No, infatti i miei conduttori, come dire, tra cracker e chiacchiere siamo arrivati alle 23.55, per cui transizione di fase e soprattutto salute e felicità vi augurano una buona notte. Io spero che continui a nevicare, anche se non ha mai iniziato, che inizi a nevicare, così. E vi lasciamo con un fantastico pezzo di... glielo diciamo? No, glielo diciamo. Vi lasciamo con... 10 minuti di canzone. Yes, la sigla finale, diciamo, la sigla. No? La sigla finale di un periodo anche un pochettino, no? La chiusura, la giusta chiusura. La giusta chiusura, la giusta misura e chiusura. Con la J. Un'altra chiusura con la J. Con la J, assolutamente. Ok, buon ascolto a tutte e tutti. Noi ci vediamo settimana prossima. Salute e felicità è una rubrica tendenzialmente queer che viene da tutte le domeniche dalle 21 alle 23 su transizionedifase.org. Andate sul sito e cercate il palinsesto. Nei prossimi giorni ci saranno numerose trasmissioni molto interessanti. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao da Salute e Felicità. A mezzanotte le campane suonano. Ciao ciao ciao, buonanotte, buona settimana, buone stelle. A presto, ciao. Buonanotte. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eyes again.